Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 27 dicembre, il sole in regione sorto alle 7.49, tramonterà alle 16.28. Mercoledì c'è luna piena e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Il 2020 sta lasciando il posto ad un anno nuovo che, mai come adesso, ci si augura sia migliore. Ma com'è andata nel comparto agricolo? In apertura un bilancio con l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zanier, che evidenzia i punti di forza e debolezza del settore primario in Friuli Venezia Giulia. A seguire le contraddizioni alimentari nel consumo di frutta e verdura, che troppo spesso sostituiamo con costosi integratori. Per la rubrica della vite e del vino, la descrizione completa del grappolo di uva maturo e per i prodotti tipici della regione la pitina, conosciuta una volta come la polpetta del bracconiere e oggi blasonato prodotto da indicazione geografica protetta. Nello spazio della gastronomia una chicca della cucina e arte del riciclo con la pancia di Monaca, lussuoso piatto dell'area goriziana. Comparazioni delle quotazioni 2020 dei mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante con un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Ultima puntata per Vita nei campi in questo 2020, per molti versi anomalo. Com'è andata in agricoltura? Ne parliamo con Stefano Zanier, che è l'assessore alle risorse agroalimentari della Regione Friuli Venezia Giulia. Iniziamo con una visione d'insieme. Anno positivo? Anno positivo sarebbe difficile dirlo per una serie di contesti che sono anche slegati da quello prettamente agricolo, e credo sia evidente a tutti. Però dovendo fare un'analisi rispetto al comparto agricolo e agroalimentare, possiamo dire che sostanzialmente questo è stato un anno dove per la parte produttiva, e quindi legato alle produzioni, specialmente quelle sia a pieno campo sia frutticole, la stagione è stata buona, è stata una stagione che non ha avuto degli eccessi climatici, ha avuto una conduzione che sostanzialmente ha dato buoni risultati e certamente è stato un anno difficile invece per quelle che sono le parti e le componenti legate alla vendita dei prodotti e quello specialmente legato al mercato dell'Horeca per tutto quello che è accaduto durante quest'anno, insomma. Ci si sta preparando per il nuovo PSR. Cosa dobbiamo chiedere di più? Ci stiamo preparando al nuovo PSR in una formula assolutamente anomala, perché mai era capitato che la programmazione slittasse di 2 anni. Quindi sostanzialmente noi nei prossimi 2 anni utilizzeremo le regole che già esistono, quindi questo PSR, utilizzando fondi della nuova programmazione del nuovo settennio. E questo limita fortemente la capacità di intervenire con una nuova programmazione scritta da capo, che è quello che è accaduto in tutte le programmazioni precedenti, dove ogni 7 anni si riscrivevano le regole. Quindi siamo un po' costretti a usare regole tra virgolette vecchie, non potendo attuare quelle nuove in quanto la programmazione a livello europeo è slittata di 2 anni. Questo ci mette in una certa difficoltà. Noi abbiamo già fatto la ricognizione di quelli che sono i fabbisogni, li andremo a condividere con le categorie economiche e con tutte le varie componenti che compongono il tavolo di partenariato, per poi andare a fare la proposta per effettivamente la nuova scrittura del PSR, che durerà a questo punto 5 anni con le nuove regole, non più 7. Dal suo punto di vista, quali sono i punti di forza, quindi da valorizzare, da coccolare, e quali punti di debolezza a cui mettere mano nell'agricoltura del Friuli Venezia Giulia? I punti di debolezza sono quelli ormai storici, ovvero per determinate tipologie produttive il mercato ormai non ha più la capacità di garantire un reddito sufficiente, a prescindere dagli sforzi di innovazione e di attenzione ai costi di produzione da parte degli imprenditori. quindi penso ad esempio a tutta una gran parte dei cereali che ormai non danno assolutamente una redditività. E vale abbastanza anche su settori legati alle carni, al settore lattiero-caseario, dove le fluttuazioni del mercato molte volte sconvolgono la capacità delle aziende di riuscire a rimanere con un livello di redditività tale da consentire la prosecuzione aziendale. È altrettanto vero che abbiamo dei punti di forza che si sta anche cercando in maniera attenta di valorizzare, che sono legati invece al prodotto trasformato, dove riusciamo a garantire delle qualità veramente elevate e riusciamo anche ad iniziare a distinguerle. Questo è il concetto fondamentale, perché è inutile avere una produzione di qualità altissima se poi non riusciamo a pubblicizzarla e a farla comprendere da parte del consumatore e riuscire quindi a spuntare quel prezzo che è relativo a un prodotto di quella qualità. E su questo si stanno concentrando molti degli sforzi, un po' di tutto il settore agroalimentare, per cercare di valorizzare il prodotto trasformato che riesce a garantire una redditività maggiore all'azienda. Frutta e verdura sono la base della nostra piramide alimentare, ma, almeno in Italia, non curiamo bene questi apporti e troppo spesso ci affidiamo a costosi integratori. Contraddizioni che ci evidenzia Cristina Micheloni nella rubrica del bio. A fine anno non si può tirare indietro, bisogna formulare i buoni propositi per l'anno che verrà, soprattutto dopo un anno complicato come quello che stiamo andando a concludere. Allora proviamoci qualcosa di facile che magari riusciamo anche a portare a compimento. Facciamoci del bene. Detto dal punto di vista alimentare, significa ricordare che frutta e verdura, vegetali in genere, sono alla base della corretta piramide alimentare. Ma proprio su frutta e verdura ci arrivano i dati recenti pubblicati nel dossier di Legambiente Stop Pesticidi 2020. Su circa 6.000 campioni analizzati da laboratori pubblici in diverse regioni italiane nel 2019, risulta che una buona metà dell'ortofrutta contiene uno o più residui di fitofarmaci, percentuale che sale al 70% nella frutta. Quasi tutti ortaggi e frutta regolarmente vendibili, perché i residui sono al di sotto della soglia legale, tranne un 1,2%. Ma ben il 27% con più di un residuo, cosa che per la normativa vigente è accettabile, perché non considera le interazioni e i possibili effetti sinergici sulla salute umana tra molecole diverse. Esempio eclatante, un campione di pere con 11 molecole riscontrate, ma comunque regolarmente commercializzabile. Peggio vanno le cose sui prodotti che provengono da fuori Unione Europea ed impressiona la quantità di residui che si ritrovano su prodotti considerati in qualche maniera salutistici come le bacche di goji o il tè verde. Ci sono anche prodotti biologici, 359 campioni, di cui 353 privi di residuo alcuno e 6 con residui sotto i limiti legali. Insomma, una bella e sostanziale differenza. Ma torniamo ai buoni propositi, farci del bene mangiando tanta frutta e verdura, quindi biologica e anche locale. Così facendo non facciamo solo del bene a noi stessi ma pure al pianeta, perché quegli stessi residui che fanno male a noi fanno ancor peggio ad api e pronubi, alla fertilità del suolo e alla qualità di aria ed acqua, e ritorna comunque anche sulla nostra salute. E nulla diciamo sull'importanza dell'alimentazione attraverso i vegetali per ridurre l'impatto climatico. Invece gli italiani preferiscono le scorciatoie, ovvero non fare prevenzione anche attraverso l'alimentazione, anzi la dovremmo chiamare responsabilità civica visto che non pertiene solamente alla salute individuale, ma spendere in pillole. Dati alla mano, nel 2019 gli italiani hanno speso 3,6 miliardi di euro in supplementi alimentari, all'interno dei quali i probiotici sono la voce più importante, con una spesa pari a 418 milioni di euro, cosa che rappresenta il 27% della spesa per probiotici all'interno dell'Unione Europea. Quindi siamo tra il popolo che consuma più supplementi alimentari e più probiotici. In altre parole, si mangia male, si usa il pretesto del costo troppo alto dei prodotti biologici, si danneggia l'ambiente e poi si spende in rimedi che costano ben di più di broccoli, cavoli, radicchi, mele, kiwi, tanto per stare sui prodotti di stagione, e che rimediano fino a un certo punto. Vabbè, buon 2021, non chiediamo miracoli, ma semplice e banale ragionevolezza. Forse ce la possiamo fare. Per la rubrica della vite e del vino il professor Roberto Zironi oggi ci spiega tutte le caratteristiche del grappolo di uva ben maturo. I grappoli dell'uva matura hanno forme e dimensioni variabili e dipendono dalle caratteristiche genetiche della cultivar e dall'ambiente di maturazione. Questo vuol dire che il grappolo maturo può avere dei pesi che possono variare da qualche decina di grammi a qualche centinaio di grammi. Gli acini sono inseriti su di un piccolo ramo chiamato raspo che costituisce il 3-5% del peso del grappolo. Il raspo è ricco di lignina e cellulosa e contiene delle sostanze particolari chiamate tannini. Queste molecole, che troveremo anche in altre parti del frutto, ne raspano una struttura poco polimerizzata, per cui contribuirebbero, una volta estratti, a dare al vino una forte astringenza. Ecco quindi che il raspo viene normalmente eliminato nelle fasi preliminari della vinificazione, o lasciato in campo se l'uva è raccolta a macchina, oppure, con un'attrezzatura particolare chiamata di raspatrice, subito separato dal grappolo nella prima fase di lavorazione dell'uva. Anche l'acino può avere forme molto diverse e ha una composizione differente in profumi e sapori. È formato da buccia, polpa e vinaccioli. I vinaccioli sono dei piccoli semi presenti in un numero da 1 a 4 e rappresentano il 5% del peso del frutto e sono costituiti da un guscio molto resistente che racchiude una mandorla ricca di sostanze amidacee e lipidiche. Nel corso della maturazione subisce delle modificazioni che ne incrementano la tenacità del tegumento e, cosa molto importante, le modificazioni sono anche correlate ad una modificazione del grado di polimerizzazione dei tannini del vinacciolo stesso. Pertanto, in funzione della maturità del seme, questi tannini possono avere fattori positivi o negativi nelle caratteristiche del vino. La buccia costituisce il 10-15% del peso, ma ha un ruolo molto importante nel determinare le caratteristiche del vino. Ha una composizione che in parte è comune alla polpa ed in parte caratteristica, specialmente per quanto riguarda le componenti aromatiche e le componenti fenoliche, sia tanniche che coloranti. Quindi è molto importante per determinare le caratteristiche organolettiche del vino. La polpa, molle o carnosa, è ricca di acqua, di zuccheri e di acidi. La concentrazione zuccherina ci darà la composizione e la concentrazione alcolica del vino, mentre la componente acidica ci determinerà dei caratteri sensoriali molto importanti ed in particolare la sua serbevolezza. Quando il flusso floematico inizia a rallentare, l'acino comincia a rammollirsi. Cosa vuol dire? Che le sostanze pectiche vengono depolimerizzate, quindi i collanti tra le cellule vengono meno e le cellule della polpa risultano quindi distaccarsi dalle cellule della buccia e non sono più aderenti al seme. Questo è il segnale che l'enologo coglie per capire che è pronto il frutto ad essere raccolto, ad essere vendemmiato. Era conosciuta come la polpetta del bracconiere, preparato tipico della pedemontana pordenonese. Oggi è un blasonato prodotto a indicazione geografica protetta. È la pitina che ci illustra Adriano Del Fabbro. La tradizione vuole che nella prima metà dell'Ottocento i montanari, nei giorni della caccia al camoscio e al capriolo, abbattessero tanti capi da cui ottenere la carne in una quantità tale che non poteva essere consumata in breve tempo. Lo stesso succedeva se si feriva una pecora, una capra o una vacca. La carne in più, ovviamente, non doveva essere sprecata e si doveva far sparire le prove dell'eventuale bracconaggio. Si pensò allora di tagliarla a pezzetti, amalgamarla con erbe e spezie, affumicarla. Ecco nata la pitina, che non è un saccato, perché con la carne tagliata si formano delle polpette che non vanno a finire in un budello. Non venivano allevati i maiali in quelle montagne e originariamente non c'erano dunque né budella né carne suina a disposizione. La preparazione non richiedeva particolari attrezzature, quindi queste polpette potevano essere preparate ovunque, anche nelle malghe in quota. Oggi è confezionata a partire da un impasto di carne tritata di capra, pecora, capriolo, daino, cervo o camoscio, con l'aggiunta di pancetta o spallotto di maiale aromatizzato con sale, pepe, aglio, vino rosso secco, erbe aromatiche come ginepro, finocchio selvatico, semi di finocchio, achillea muscata, nitrati e nitriti che sono dei conservanti, raccolto in polpette semisferiche di 3-4 cm di spessore del peso di 100-300 grammi, ricoperte da un lieve strato di farina di mais. Si tratta dunque di un salume non insaccato, stagionato ma non essiccato. Al termine della preparazione viene affumicato utilizzando la combustione di legno di faggio, carpino o alberi da frutto per una durata di 4-48 ore. La pitina può essere messa in commercio non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data d'inizio della lavorazione. Per valorizzare la polpetta del bracconiere è stato costituito un consorzio ad hoc, Poiati, associazione temporanea d'impresa, che ha percorso tutti i passaggi necessari alla sua tutela. Infatti, dopo essere stata inserita nell'elenco dei prodotti tradizionali del Friuli Venezia Giulia nel 2000 e diventata presidio Slow Food nel 2018, ha ricevuto la tutela europea dell'IGP, rispettando uno specifico disciplinare di produzione, al quale è abbinato un apposito marchio. Una quindicina di artigiani producono circa 300 quintali l'anno di questo particolare salume. Dal 1996, nell'ultimo fine settimana di luglio, la Proloco di Tramonti di Sopra organizza la festa della pitina. L'arte del riciclo non appartiene alla cucina povera e sforna ricette di alta gamma, come ci spiega oggi Roberto Zottar, con la pancia di Monaca. Nelle società preindustriali, avvezze a valorizzare le proprie risorse fino in fondo, non solo non si sprecava nulla, ma la nozione di spreco era considerata inconcepibile e a livello gastronomico c'era un'economia del recupero con polpette, polpettoni e ribollite. Il cibo era inteso non in funzione del singolo pasto, ma di più pasti, e il senso di ciò si può riscontrare in un vecchio detto genovese, secondo cui un buon piatto dura 3 giorni. Il testo d'inizio Novecento, L'arte di riutilizzare gli avanzi, della mensa, di Olindo Guerrini, non è un manifesto della cucina povera, ma al contrario un classico della cucina ricca, quella che proprio in quanto tale si poteva permettere molti avanzi da riutilizzare per conferirgli nuova forma e nuovi sapori. In cucina esisteva un'economia della settimana, che oggi abbiamo perso, dove da un lato c'era lo stoccaggio e la conservazione delle risorse alimentari e dall'altra si elaboravano strategie di recupero e riutilizzo. Oggi l'industria alimentare ci ha indotto all'economia del consumo, con l'instant food che al limite si conserva in freezer e la cultura del riciclo che è sostituita dalla cultura della dispensa piena. Sono ad esempio sempre di meno le massaie, anche al maschile, che grattano il pane duro per poi riutilizzarlo per impanare o per altro. Oggi vi racconto di un delizioso pasticcio di crespelle farcite che si preparava per Santo Stefano e per Pasquetta utilizzando gli avanzi rispettivamente del pranzo di Natale e di quello di Pasqua. Questa ricetta di tradizione è ancora presente in famiglie di Gorizia, Gradisca e del Basso Friuli. Il nome, pancia di Monaca, tradisce il suo aspetto color crema pallido. Preparate una decina di crepe piuttosto spesse, con 3 uova, 180 g di farina e 300 g di latte. Utilizzate avanzi di arrosto o cucinate appositamente 1 chilo di vitello arrosto che macinerete, non frullerete, insieme al suo sugo. Aggiungete un uovo e 1,5 etto di parmigiano grattugiato. Formate una torta a strati alterni di crepe e impasto d'arrosto, ben distribuito e con uno spessore doppio rispetto a quello delle crepe. Richiudete la torta in un canovaccio e infilate nel nodo dei suoi lembi il manico di un mestolo di legno che funga da sostegno in modo che la torta sia immersa in abbondante acqua bollente senza toccare il fondo. Sobollite per 20 minuti. Scolate e adagiate sul piatto di portata. Servite a fette condite o con il sugo d'arrosto o con burro fuso e pan grattato abbrustolito e ancora parmigiano. Altro che riciclo! E vale la pena di far apposta questa pancia di Monaca. Buon appetito e vi auguro un anno migliore. Come sono andate le quotazioni sui mercati agricoli nell'anno appena trascorso? Amos D'Antoni ci ha preparato una serie di valutazioni. Per quanto riguarda i mercati dei prodotti agricoli, valutiamo a fine anno l'andamento con un confronto tra i prezzi del 2019 e quelli del 2020. Il settore cerealicolo quest'anno è stato dominato da una buona redditività, con una ripresa dei prezzi per il mais e l'orzo di circa 2 euro il quintale, 1,50 centesimi per il frumento. Un buon aumento lo ha raggiunto la soia. In questi ultimi tempi ha superato il prezzo del 2019 di oltre 8 euro il quintale. Nel comparto del bovino e macello, invece, le vacche fine carriera di prima qualità hanno subito una perdita che si aggira dai 40 ai 50 centesimi il chilo, un po' meno quelli di minor pregio. mentre i vitelli da ristallo di razza blu belga e pezzati rossi maschi hanno guadagnato una decina di centesimi. I frisoni e anche i bruni alpini rispetto al 2019 hanno invece perso dai 10 ai 30 centesimi il chilo. Anche il mercato suinicolo durante l'anno ha avuto diverse variazioni. Aumenti all'inizio causa i problemi sanitari cinesi, ma trascorsi pochi mesi i prezzi dei lattonzoli al termine sono diminuiti di circa un euro il chilo, un po' meno i grassi di allevamento e nostrani. Il comparto lattiero-caseario ha avuto durante l'anno momenti affidabili e anche incerti. Per quanto riguarda il formaggio montasio, si può affermare che l'anno in corso ha registrato alcuni sensibili miglioramenti, sia per quanto riguarda i prezzi che le produzioni. C'è stato da parte dei consumatori un incremento della richiesta, con un trend di giudizi positivi, in particolare per quello oltre i 90 giorni di stagionatura, per l'armonia e i sapori che il tempo gli dona. Anche il fresco e lo stagionato hanno registrato sensibili aumenti delle quotazioni. Il prezzo del latte crudo di vacca alla stalla, di origine del Friuli Venezia Giulia, invece, da 0,38,50 centesimi è finito a 0,36, più premi qualità ed IVA, con una perdita di un paio di centesimi il litro. Considerando le spese di gestione delle stalle, il prezzo è insufficiente per compensare il lavoro che viene prodotto dagli imprenditori zootecnici. Infine, la prossima domenica valuteremo l'andamento dei mercati ortofrutticoli, del pesce, dei foraggi, del legno, del prosciutto e degli avi cunicoli. Auguri di buon anno a tutti. E con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Questo mese di dicembre rimarrà agli archivi come uno dei più singolari degli ultimi 30 anni, soprattutto per le precipitazioni, già particolarmente copiose nei primi giorni e che a partire da domani arriveranno nuovamente su tutte le zone della regione. La neve caduta abbondante prima in quota e poi anche a fondovalle l'8 dicembre ha regalato a tutta la montagna friulana un paesaggio invernale che da almeno 12 anni non vedevamo così presto. Domani arriverà una profonda depressione dalla Groenlandia, con un marcato afflusso di correnti umide meridionali. Sono attese nevicate intense sulla zona montana fino a fondovalle e probabilmente al mattino anche in pianure sul Carso. Soffierà vento forte in mattinata da sud o sud-est, poi da sud-ovest in Libeccio e saranno possibili anche rovesci temporaleschi, mareggiate e acqua alta sulla costa. Il fronte passerà in serata, ma martedì, con il persistere della depressione, rimarrà ancora instabile con precipitazioni sparse, più probabili al pomeriggio e sulle zone orientali, nevicate oltre 400-500 metri di quota circa. Mercoledì e giovedì probabilmente avremo qualche schiarita, specie sulle zone occidentali e in montagna, ma non è escluso ancora qualche rovescio, specie sulla fascia orientale. Le temperature rimarranno stazionarie con massime fra 6 e 9 gradi su pianura e costa, zero termico a 1000 metri. Il nuovo anno non porterà grandi cambiamenti, rimarrà ancora tempo moderatamente instabile, con probabile maggiore nuvolosità su bassa pianura, costa e zone orientali, causato dalla persistenza di correnti da sud-ovest a tratti umide. Ci saranno altre precipitazioni sparse, nevose a 400-500 metri di quota circa e un lieve calo delle temperature. Con l'invito a seguire gli aggiornamenti, vista la notevole dinamicità dell'atmosfera, da parte di tutta la squadra ARPA Osmer Friuli Venezia Giulia, auguriamo agli ascoltatori un buon 2021. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. An di neve, an di ben, ovvero anno di neve, anno di bene, che fa il paio con sot la neve a lei il pan, sot l'aghe a ie la fan, ovvero sotto la neve c'è il pane, sotto l'acqua la fame. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitanecampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano, vi danno appuntamento a domenica prossima con tanti auguri di buone feste. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.